Friuli nel mondo, 85esima trasmissione dedicata agli emigrati. Uomini e cose di Sedeliano. Ogni paese, si sa, ha una sua caratteristica, un monumento, un edificio o un segno particolare impresso lì dalla natura, come il profilo di un monte o il capriccio di un fiume nel suo corso. E tale caratteristica fissa nella nostra memoria il nome di quel luogo, di quel paese. Ebbene, fra i 100 e 100 paesi del Friuli, ce n'è uno che nel bel mezzo della sua piazza innalza, solenne a somiglianza ad un re sul trono, il campanile. Questo paese è Sedeliano, e quel suo campanile è il sostituto d'uno assai più antico, di cui servono memoria le storie locali e che fu opera di un costruttore di qui a nome Mastro Tessitore. Certo, non è solo questa la memoria che le storie di Sedeliano ci tramandano. A voler indagare tra le pagine che registrano la vita del paese attraverso i secoli, ce ne vorrebbe di pazienza e di dottrina. Pensate solo che la sua origine è così antica da non poterla neppure stabilire con esattezza. Comunque, dove cessano dubbi e supposizioni e si affaccia la storia con la certezza delle sue testimonianze, è l'epoca romana. Tanto che negli archivi ormai purtroppo distrutti del comune si poteva leggere come e qualmente il paese tragga il proprio nome da quello di un tal Satellio, che il villaggio e le campagne circostanti ebbe in compenso dei servigi resi militando nelle legioni di Roma che combattevano al nord. Da allora in poi, su, dalle invasioni barbariche ad oggi, la storia di Sedeliano e delle frazioni che ne compongono il comune non differisce sostanzialmente da quella di tanti e tanti paesi del Friuli, una lunga storia di dominazioni e di saccheggi, di sofferenze e di devastazioni, di ricostruzioni e di rinascite. E appunto perché parlare di Sedeliano è un po' come parlare di tutto il Friuli che oggi sostiamo nella piazza che ha nel suo bel mezzo il campanile, e dall'alto della cella campanaria i sacri bronzi salutano voi, cari emigrati in ascolto. E voi nella voce delle campane, che sono il caratteristico messaggio del Friuli, riconoscete persone e cose che si affollano sul magico schermo del ricordo. Salutano in particolare voi di Sedeliano, ma salutano anche voi di San Lorenzo, e voi di Turrida, e voi di Gradisca, di Grions, di Coderno, di Rivis, di Redenzicco, e voi tutti, indistintamente tutti, di tutto il Friuli, perché quando si è lontani di casa, ogni campana della nostra terra è la campana del nostro paese. Ma Friuli nel mondo ha voluto inviarvi il suo ricordo affettuoso da Sedeliano, anche perché da qui, da questo paese, dalle sue frazioni, sono partiti, disseminandosi attraverso tutte le strade della terra, centinaia e centinaia di lavoratori che hanno dato la vigoria delle loro braccia e del loro intelletto ai vari stati d'Europa e dell'America Latina, e particolarmente in questi ultimi anni al Canada e all'Australia. Braccia e intelletti degni di una stirpe che non ha mai lesinato contributi di operosità e di civiltà ai tanti paesi stranieri che li hanno ospitati. Zona di emigranti, il comune di Sedeliano, ma anche terra di uomini la cui opera e la fama ad essa legata ha superato i confini della piccola patria. Dal magistrato Perusini al vescovo Venier di Gradisca, dal generale Pressacco a Monsignor Angelo Molaro, letterato e storico, e al gesuita padre Masutti, missionario e poliglotta. Uomini del passato, ma nomi presenti nel ricordo e nella venerazione dei sedelianesi, e le cui orme oggi seguono nel segno di una missione di fede e di civiltà che non si smentisce, padre Cividino, missionario in Giappone, e don Umberto Ceselin, cappellano di nostri lavoratori del villaggio costruito dalla Snia Viscosa presso Umkomaas nel Sudafrica. Ma Sedeliano ha soprattutto il vanto d'aver dato all'Italia d'oggi un ministro, anzi l'unico ministro friulano del secondo dopoguerra, il senatore Tiziano Tessitori. Chi non conosce fra i nostri emigrati il nome del ministro Tessitori? Egli è il presidente dell'ente Friuli nel mondo e della società filologica friulana. Egli è, nella nostra regione, il friulano per antonomasia. Innumerevoli le benemerenze che egli ha acquistato nella nostra terra, soprattutto nel campo politico e in quello degli studi giuridici e storico-letterari, ma uno dei meriti maggiori riguarda proprio voi, amici in ascolto, perché a voi è rivolto il primo pensiero d'ogni sua operosa giornata. Pensiamo vi sarà gradita la dedica che vi facciamo d'un frammento d'una sua allocuzione agli emigranti friulani. Ascoltate. Io sono qui per dirvi il saluto melanconico dell'ente Friuli nel mondo che vive la sua vita da ormai oltre 6 anni. Una istituzione unica in Italia, che è sorta come una pianta dal cuore fecondo dei friulani. Esso è sorto perché vorrebbe rappresentare la semente d'una pianta che vorrei crescesse robusta e forte come una quercia. Esso è sorto come semente perché il mondo della emigrazione friulana senta il legame con la piccola terra che la vide nascere, non perda i contatti con la gente che rimane qui, non dimentichi la luce e il calore della tradizione, che prima di partire per i 4 punti cardinali ha imparato accanto alla fiamma del focolare. Il senatore Tessitori si onora di essere figlio di gente dei campi. Se egli oggi è assurto all'importantissimo incarico di ministro segretario di Stato, lo deve, oltre che alla propria spiccatissima intelligenza e alla competenza e sensibilità per i vari problemi nazionali e locali, lo deve alla religione del lavoro trasmessali dalla sua famiglia quando era ragazzo. Così, figlio di umili contadini, è un altro friulano del comune di Sedeliano, il quale ha iscritto il proprio nome tra quelli dei maggiori poeti italiani del nostro tempo. Padre David Maria Turoldo, nativo di Coderno, sacerdote ed emigrante insieme. Di padre Turoldo, eccovi una lirica, Io non ho mani, da cui si intitola il suo primo volume. In questi versi, egli definisce con singolare forza di sintesi la missione di dedizione, di sacrificio, di rinuncia del sacerdozio. Io non ho mani che mi accarezzino il volto. Duro è l'ufficio di queste parole che non conoscono amori. Non so le dolcezze dei vostri abbandoni. Ho dovuto essere custode della vostra solitudine. Sono salvatore di ore perdute. E ascoltate anche dalla viva voce di padre Turoldo alcune parole rivolte in una riunione di friulani residenti a Toronto in occasione di una sua missione in terra canadese. Ho avuto questa fortuna di essere un emigrante tra gli emigranti. Sono figlio di emigranti, ma noi friulani portiamo sempre una zolla di terra con noi. Ricordo della famiglia e una villotta. Vi abbiamo parlato degli uomini di Sedeliano, ma come tacervi delle cose del comune? Ebbene, siamo lieti di dirvi che il capoluogo e le frazioni hanno fatto in questi anni, dopo i lutti e le rovine della guerra, autentici passi da gigante. La civica amministrazione ha ricostruito e ampliato gli edifici scolastici delle frazioni e profuso mezzi ingenti per dotarli di necessari sussidi didattici, ha istituito un ambulatorio odontoiatrico, ha asfaltato strade esterne e interne, sistemato piazze e asili, provveduto a una folta rete interna dell'acquedotto e delle fognature. Ora sta costruendo una fontana decorativa, la cui esecuzione è affidata al centro professionale mosaicisti di Spilimbergo. Organi moderni e perfetti hanno in questi ultimi anni sostituito i vecchi già esistenti a San Lorenzo, Torrida, Grions e Gradisca. E questo un naturale complemento di quella tradizione di sensibilità musicale della zona che ha i suoi esemplari nei complessi bandistici e corali. Proprio quest'anno si compie il mezzo secolo di vita della banda di Coderno ed è una data da sottolineare, come da rilevare l'attività del coro di San Lorenzo di Sedeviano, nella cui esecuzione ascolterete ora un canto nostro